Quando guardo un bambino, quanto sia di vergogna e rovina il suo gioco a venire, quella sua sofferenza in cerca d'uomini come noi li cerchiamo, il suo aspirare come noi al bello, al vero. Se rifletto il suo stento sfiorire, che sarà solo come noi siamo. Strappate i vostri figli dalle culle e gettateli in mare e scampateli al disonore vostro. Ti vedrò un giorno, forse dopo tanto tempo, a desio sfiorito, gli occhi chiusi, ce ne andremo guidati dal discorso. Sereni, a somiglianza dei felici interdetti, finché questo momento dell'addio evocherà tanto passato, a consolare il cuore ti guarderò stupito, sentirò voci d'antico, un canto dolce. Oh mio Alabanda, tu m'hai condannato. Eri l'ultima speranza mia, giovane. Ora voglio più nulla. Questo è sacrosanto ora. Noi compiangiamo i morti, quasi morti si sentissero morti e sono in pace, mentre il dolore senza uguali è questo. Devi cadere e nulla di te rimane. Nessuno, anche il più misero, stenta nelle sue feste, ma una sola è tra voi sempre festosa.